19.35, torniamo in diretta con Cronache di Regime. Questi erano i Napalm Death con Next Bunch Back Off. E come detto, proviamo a farci una chiacchierata con Ivan Spada, che è l'autore del libro Il fascismo a Bologna, edito da Red Star Press, storia delle camicie nere all'ombra delle due torri, tra il 1919 e il 1945. Ciao, ci senti? Certo, ciao a tutti, grazie mille di avermi invitato. Ciao, buonasera e benvenuto a Cronache di Regime. Allora, se vogliamo iniziare un po' la chiacchiera, ci vuoi dare una panoramica generale, la presentazione, insomma, di questo libro, dove parli, insomma, della storia del fascismo appunto a Bologna? Sì, certo, allora, guarda, intanto questo libro è stato edito da Red Star Press, come hai detto te, quest'autunno, perché insomma è il frutto di un contest che è stato fatto comunque l'anno scorso, un premio di laurea che si chiama Francesco Lorusso, che viene fatto ogni anno qua a Bologna, e praticamente io partecipai con la mia tesi di laurea magistrale, lo vinsi, e chiaramente il premio era la pubblicazione come libro di questa tesi di laurea. E questa tesi di laurea infatti poi la incentrai sul fenomeno del fascismo bolognese, più che altro per inquadrarlo sia storicamente, insomma riuscire a dare un quadro anche abbastanza approfondito delle dinamiche interne del movimento, poi il partito, insomma, e soprattutto riuscire un attimo a ricostruire i personaggi, i protagonisti, e soprattutto le loro carriere e i gruppi di potere che hanno creato durante poi più di 20 anni di governo sia locale ma anche a livello nazionale, perché poi personaggi come Leandro Arpinati, che sarà il segretario del Partito Nazionale Fascista a Bologna per più di 10 anni, diventerà anche sottosegretario degli interni per il governo Mussolini nel 29. E insomma diversi altri illustri personaggi del fascismo bolognese come Dino Grandi, per esempio, Aldo Viglio, Gino Baroncini, insomma diventeranno comunque delle figure di spicco del fascismo italiano e anche internazionale, perché Dino Grandi diventerà poi un referente politico del fascismo italiano per la Società delle Nazioni, per esempio, nonché il ministro degli esteri. Insomma, sono tutte persone che fanno capire quanto il fascismo bolognese fosse, diciamo, come diceva lo stesso Mussolini, l'architrave del fascismo italiano. E quindi, insomma, diciamo che è un lavoro di tipo locale, ha uno sguardo dal punto di vista anche nazionale, soprattutto nazionale, perché poi in un regime come quello fascista, totalitario, tutto quello che succedeva alla base si rispecchiava a livello di vertice e viceversa, quindi tutte le dinamiche. Non so se sono stato abbastanza chiaro, sì, anche sì. Perché diciamo che una cosa importante da capire è che questo lavoro l'ho voluto fare anche per riuscire a smantellare, chiaramente utilizzando le fonti, che sono veramente numerose all'interno del mio lavoro, tutto quel tipo di narrazione che ci siamo portati praticamente dalla liberazione dal 45 fino ad adesso, di un fascismo, come posso dire, del partito dell'ordine, no? Del partito praticamente che sì, aveva privato delle libertà personali, no? Però aveva fatto anche cose buone, no? Come si sente spesso dire, e come soprattutto negli ultimi 20 anni è stato portato avanti dai media nazionali e da un certo tipo di storiografia revisionista. Quindi quello che ho voluto cercare di fare è stato far chiarezza, no? Sul fenomeno e riuscire un attimo a smantellare questa narrazione che è ovviamente faziosa, non storica e ideologica, di un fascismo che invece risulta dalle fonti invece un fascismo dove ad esempio il nepotismo era l'ordine del giorno, dove appunto gruppi di potere erano l'ordine del giorno anche quelli, cioè creare dei feudi locali come quello bolognese, perché sotto Leandro Arpinati quasi tutte le istituzioni cittadine, tutti i fondi di credito, tutti gli istituti di credito della città, tutti i giornali, tutti, insomma, tutti, diciamo, i gaggi di potere all'interno della società civile bolognese vengono letteralmente fagocitati non solo dal partito, ma anche cioè proprio a livello personale da chi faceva parte della classe dirigente fascista, creando proprio dei gruppi di interesse economici, non solo politici, con tutti i giri di soldi ovviamente che c'erano dietro e con tutte le speculazioni che c'erano dietro. E quindi sì, insomma, abbiamo poco tempo, quindi è chiaro che non posso parlare di tutto. Chiaramente nel libro è spiegato benissimo come il fascismo a livello locale, ma soprattutto poi a livello nazionale, ha gestito, no, la società civile italiana e come posso dire, a livello di narrazione risulta invece un fascismo che non è una parentesi della storia italiana, soprattutto non è una parentesi della storia liberale italiana, ma bensì è un suo coerente proseguimento. Cioè c'è un filo rosso che congiunge l'Italia del Risorgimento all'Italia fascista e poi all'Italia democratica dopo, democratica repubblicana. E quindi, insomma, poi è molto interessante, per me almeno, è stato molto interessante riuscire a ricostruire le vicende anche personali di molti di questi fascisti, soprattutto nel momento in cui c'è stata la liberazione, no? Che fine avevano fatto tutte queste persone che avevano commesso magari numerosi crimini di sangue, numerose speculazioni, numerosi, insomma, atti assolutamente anche criminali, come ad esempio Arconobaldo Buonaccorsi, colui che uccise Anteo Zamboni, per chi lo sapesse, che fine avevano fatto. E quindi c'è un'intera appendice biografica alla fine, dove si vede anche alla fine se hanno subito dei processi, se sono stati amnistiati, se sono stati, non so, giustiziati, se invece sono scappati all'estero, ed è molto interessante un po' il dato che ne risulta. Insomma, che effettivamente la maggior parte di loro non solo la farà franca, ma tendenzialmente verrà riabilitato dal sistema repubblicano che verrà dopo, insomma, la guerra. E quindi non so, Pasca, se tu avevi delle domande in merito, se è stato che è abbastanza chiaro anche su questo. Ma sì, io la domanda che avevo in realtà l'hai già esplicata nella tua presentazione, nel senso perché volevo insomma chiederti il perché di questo racconto storico sul fascismo a Bologna, però già mi hai detto anche per cercare di ridare una narrazione che sia differente a quella degli ultimi 20 anni, che appunto ha provato a ripulire la faccia Eh sì, è che a questo effettivamente la regime. ricerca storica sul fascismo, no? Cioè magari subito dopo la guerra, si è concentrata molto sul periodo resistenziale. Perché? Perché l'Italia repubblicana doveva ridare, come posso dire, una bella immagine, insomma, dell'Italia che usciva dalla guerra, far vedere che comunque l'Italia non era un'Italia fascista, ma anzi aveva poi combattuto il fascismo e che insomma non doveva essere trattata come un nemico di guerra e che si era insomma aveva avuto una rivalsa, no, con la liberazione, cosa che invece non farà ad esempio la Germania dal punto di vista storiografico e politico. L'Italia invece tenterà insomma di farsi passare come un'Italia che insomma non come posso dire, presente tutto il discorso sugli italiani brava gente, sul tentare di insomma far passare che insomma no, ma noi alla fine gli ebrei li nascondevamo in casa, nascondevamo i soldati inglesi, eccetera, eccetera, eccetera. E tutti dopo la liberazione erano partigiani, eccetera, eccetera. Chiaramente si è concentrato molto su quello, la storiografia sulla parte resistenziale o sulla figura di Mussolini. E quindi ci sono innumerevoli biografie di Mussolini, come ad esempio anche quella di appunto, cioè Gentile, che ricostruisce questa parte. Ce ne sono diversi, insomma, di storici e studiosi che hanno ricostruito la figura di Mussolini. Sta di fatto che quello che poi in verità si faceva fatica a ricostruire, in verità era come si era sviluppato il fascismo a livello locale e soprattutto tutte le appunto, tutte quelle dinamiche più, più piccole, no? Più insomma, dei microsistemi, cosa che invece è risultata grazie a, soprattutto allo sblocco di innumerevoli fondi di archivio che sono stati sbloccati negli ultimi 10 anni, non prima per questioni di privacy o comunque per questioni di legge, perché la maggior parte degli archivi storici e archivi di Stato per 60-70 anni non possono farti, non possono mostrarti i documenti per appunto questioni di privacy. E quindi solo negli ultimi 10-15 anni molti fascicoli, ad esempio personali su Leandro Alpinati, ad esempio, sono stati sbloccati veramente di recente. Quindi diciamo che tutto questo nuovo filone storiografico sta emergendo veramente nell'ultimissimo periodo. Prima o non era interessante politicamente o non c'era proprio la possibilità di accedere a dei fondi che permettessero la ricerca su questo. Quindi diciamo che la mia intenzione è stata riuscire appunto a ricostruire tutto quello che ho detto prima e riuscire soprattutto, almeno la mia intenzione personale è riuscire a smantellare un certo tipo di narrazione che negli ultimi 20-25 anni veramente è stata dominante e tuttora comunque, cioè, sta portando avanti dei mostri, cioè ad esempio tutta la questione sulle poibe, cioè quella storiografia revisionista basata veramente su niente, cioè, dal punto di vista storiografico è veramente terrificante. E, insomma, non so se ho risposto anche a questa domanda più o meno. Sì, e niente, allora io concluderei chiedendoti se hai altre date di presentazione, visto che un po' in giro l'hai presentato, tra l'altro l'hai presentato a bancarotta, che è stato lo spazio occupato per non troppo tempo, in realtà per circa un paio di settimane, penso, a Bologna, ed è stato sgomberato proprio l'altro giorno. Quindi volevo chiederti se ci sono altre date di presentazione, se ce n'hai in programma qualcun'altra. Guarda, adesso, ora come ora, dovrei averne una intorno al 25 aprile, però ancora da confermare, sempre qua a Bologna, e un'altra invece il 28 aprile a San Giorgio di Piano, che è comunque qua nel bolognese, e ce ne saranno altre che sono in programma ma che sono da confermare, quindi attualmente non sto ad annunciarle perché sono ancora in work in progress, diciamo. Però sì, l'ultima che ho fatto è stata appunto a Bancarotta, che mi ha fatto veramente piacere perché appena i compagni mi hanno contattato, è stata una roba veramente all'ultimo minuto, sono riuscita a imbastirla ed è andata anche molto bene e sono molto contento. Purtroppo appunto lo spazio non c'è più, però insomma i compagni sono comunque carichi, dai, speriamo in bene. Allora, l'ultima domanda però te la faccio, spiegaci un po' questo concerto che organizzate con il giro Hardcore Heritage Vegan bolognese, è sempre stato fortissimo a fine maggio, se non mi sbaglio. Questa, sì, esatto, della strappo. Guarda, da punk. Io con altri ragazzi comunque tra Bologna e Romagna, molti romagnoli, e abbiamo tirato su questo collettivo Vegan Straight Edge per lo più per riprendere in mano un po' di argomenti, anche perché diciamo che posso dire, determinati tipi di lotte e discorsi sono andati veramente molto a scemare negli ultimi 10 anni, almeno da quando giro io, quando mi sono avvicinato a una determinata scena, ho visto veramente un declino di determinati discorsi, purtroppo, ed è una cosa che a me invece è sempre, insomma, come ben sappiamo, insomma, io e te, Pasqua, abbiamo sempre portato avanti determinati discorsi, e diciamo che il problema di Bologna è la mancanza di spazi, e quindi stiamo tentando di fare un po' di necessità virtù. Tra alcuni compagni della Bologna Core e altri, insomma, tentiamo di fare robe di piazza, benefit, e invece con Cross Shows tentiamo di fare delle robe che magari sono magari in un locale, ma sempre con un'ottica nostra, per riuscire ad avvicinare persone che magari solitamente non si avvicinerebbe ai nostri discorsi. Quindi di base è un lavoro un po' su diversi piani, però che comunque si intreccia con insomma tutta l'ottica di DIY, tutta la logica, insomma, con cui siamo cresciuti, libertaria, e insomma, è anti-autoritaria di base. Quindi, insomma, tutti i discorsi sulla liberazione animale, appunto l'anti-autoritarismo, l'anti-militarismo. Allora, scusate, è caduta un attimo la linea, proviamo a richiamare subito il compagno, perdonateci. Pronto? Pronto, sì, è caduta la linea, perdonami. Pronto? Perdonami, il cavo. Va bene, stavi dicendo, se vogliamo rilanciare, mi senti? Non ci sente più il compagno. Allora, un attimo solo, proviamo 2 secondi a ricontattarlo. Scusate. Pronto? Ci senti? Ivan, senti? Pronto, senti? Pronto? Non ci senti più? Purtroppo non vi sento. Non ci sente più, niente, quindi è un po'... Pronto? Senti ora? Senti? Non riesco a sentirvi. Non senti più? Vabbè, purtroppo abbiamo questo problema, proviamo per l'ultima volta, poi andiamo avanti, perché purtroppo... La scaletta stringe un po', speriamo che non ci siano problemi anche con le prossime chiamate. Ciao, ci senti ora? Vabbè, okay. Comunque accorcio, perché comunque se ci siamo dilungati. Parte, sì, poi è caduta la linea, abbiamo avuto il problema tecnico tipico della diretta, sì, di Mala Radio. Comunque... La prima data che facciamo è il 29 maggio al Circolo Dev a Bologna, che è un circolo che c'è praticamente in centro a Bologna con i Lion Estates, ci sono poi i Six Stompers e insomma tutti questi, cioè venite a supportare, che insomma è una serata che spacca e insomma vediamoci là che... Insomma, diciamo che ne abbiamo bisogno un po' tutti e soprattutto nelle prossime annunceremo un po' di date e benefit che organizzeremo in piazza, che faremo in Piazza dell'Unità. Quindi, insomma, venite a supportare e noi comunque continueremo a portare avanti i nostri discorsi, e, insomma, di portare avanti i nostri messaggi che da sempre ci contraddistinguono, insomma. Perfetto, dai, allora rilanciamo l'appuntamento il 29 maggio per i concertini hardcore, ce n'è anche uno o due settimane prima a Bologna, ci sono i Bishop Green, soprattutto ci vediamo là se ci sei, e niente, io ti saluto e ti ringrazio per la disponibilità e scusa per il disguido tecnico. Dai, grazie a te Pasqua. Ok, ciao. Perfetto. Noi andiamo avanti, ciao. Andiamo avanti con un po' di punk hardcore, anzi un po' proprio di hardcore vecchia scuola all'italiana, e ci sentiamo Gli Ingegno con Fragili Illusioni.